abituerò a non trovarti, ma abituerò a voltarmi e non ci sarai. Ma abituerò a non pensarti quasi mai, quasi mai, quasi mai. C'è sempre uno strappo e c'è qualcuno che ha strappato di più. Non è mai qualcosa di esatto, chi ha dato e poi chi ha preso